Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. My wife Agnese. Oh, my pleasure to meet you. And nice to see you. Hi there. How are you doing? And what's your name? My name is Esther. Esther, lovely to meet you, Esther. You speak much better English than I speak Italian already. And sai che la sua bambina si chiama Florence. Yes. Come Florence. Queste, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le presentazioni reciproche delle due famiglie, quella di Renzi, presidente del Consiglio italiano, e quella del primo ministro britannico Cameron, che oggi era in Italia per questo incontro bilaterale con Renzi. Gli sposi sono visti e, diciamo, l'argomento principale è stato senz'altro l'immigrazione. Però intanto questo, diciamo, siparietto in cui si sono presentati, c'erano anche i figli, e l'ultima cosa che ha detto in traduzione italiana Renzi, passando dalla sua, diciamo, dimensione poliglotta, è stata quella di dire alla sua bambina, la più piccola, che la figlia di Cameron si chiama Florence, che naturalmente in italiano anche ha tradotto Cameron, significa Firenze, quindi questo orgoglio, diciamo, di una bambina che si chiama Florence. Ma stando invece su cose, diciamo così, più pragmatiche, oggi vi dicevo hanno parlato del tema dell'immigrazione, è stato al centro di questo incontro, di questo vertice bilaterale. Su questo tema ritorneremo naturalmente, perché c'è una gran confusione al di là delle tragedie umane, di quello che sta succedendo, delle difficoltà anche dell'Italia di sostenere questo flusso migratorio. C'è una gran confusione tra il trattato di Schengen, quello di Dublino, gli accordi vari, se sono rispettati o meno, come sta succedendo per esempio a Ventimiglia, al confine con la Francia. Questo è uno dei temi di stasera. Poi parleremo di scuola, torneremo a parlare di scuola, perché oggi i maturandi hanno affrontato la prima prova, ieri c'è stato lo speciale, oggi sentiamo un po' anche come vengono commentate da esperti le tracce che oggi sono state sottoposte agli studenti. Ci sarà anche, dovremmo raggiungere, il sottosegretario all'istruzione Faraone. E poi c'è una novità che riguarda il Jobs Act, che probabilmente farà discutere, che è questo decreto attuativo che riguarda la possibilità di controllare i lavoratori a distanza attraverso i cellulari o i PC o i tablet che vengono dati dall'azienda, quindi degli strumenti, diciamo, lavorativi. Già la CGIL ha annunciato battaglie, così anche gli altri sindacati. Insomma, un sacco di temi anche questa sera. Vi chiedo, per esempio, su questo, su questa novità che riguarda il Jobs Act, se siete d'accordo o meno della possibilità di controllare a distanza. Non c'è bisogno dell'accordo dei lavoratori, da parte del datore di lavoro. Quindi i vostri due canali privilegiati, come sempre, sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli SMS al 349-238-6666, lo ripeto più lentamente, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi riassumo, come sempre, la giornata. L'emergenza immigrazione, nel vertice Renzi-Cameron il primo ministro britannico promette solo uomini e risorse, l'Ungheria progetta un muro antimigrati alto 4 metri e Salvini polemizza con il Papa. La questione dei Rom, dopo la riunione con i sindaci al Viminale, il ministro Alfano scrive in un tweet: occorre smantellare i campi Rom. Grecia, il primo ministro greco Tsipras chiude a compromessi con i creditori in vista del cruciale Eurogruppo di domani, annuncia un grande no a un cattivo accordo. Michelle Obama è a Milano, la First Lady americana promuove stili di vita salutari, domani visita Expo. Scuola, oggi c'è stata la prima prova dei maturandi, il 50% ha scelto la traccia sulle nuove tecnologie e social network. Decreto del Jobs Act, i lavoratori con PC e cellulare potranno essere controllati a distanza, il datore di lavoro non avrà bisogno di autorizzazioni o accordi, la CGIL annuncia battaglia. Calcio, Coppa America, stregata per la Juventus, Vidal coinvolto in un incidente, Tevez verso l'addio dei bianconeri. Partiamo dall'emergenza immigrazione, che vi dicevo è stato anche il tema centrale dell'incontro bilaterale oggi tra Renzi e Cameron. È arrivato intorno alle 13, Cameron a Expo per il National Day della Gran Bretagna, ad accoglierlo il commissario unico Giuseppe Sala davanti a Palazzo Italia, dove lo aspettava il premier Matteo Renzi. Il bilaterale è durato circa 2 ore, poi la visita al padiglione inglese e l'incontro con gli imprenditori. Al centro del vertice Renzi-Cameron l'emergenza immigrazione. Il Regno Unito, come noto, è contrario alla redistribuzione dei migranti. Il premier inglese ha detto: manderemo gente e risorse in Sicilia per cercare di bloccare il traffico di esseri umani dal Nord Africa. ma la Gran Bretagna sta già giocando il suo ruolo nel Mediterraneo con navi e aiuti. Renzi risponde: sulle scelte da adottare in Europa ci sono posizioni diverse, ma c'è la condivisione che il problema dei migranti non sia solo italiano. Le modalità con le quali affronteremo questo tema sono oggetto di discussione anche in queste ore, partendo dalla prima necessità, che è quella di risolvere il problema alla radice in Africa. E per chiudere la visita, il tweet del Premier: anche oggi leader internazionali e tanti cittadini, Expo 2015, che bella l'Italia che vince le sfide. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La giornata mondiale dei profughi, promossa dall'ONU, sarà sabato, ma già oggi in udienza Papa Francesco non ha usato mezzi termini. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente. Un appello e una denuncia che ha scatenato il leader della Lega Salvini a Radio Padania. Lo diciamo con tutto rispetto a Papa Francesco, non abbiamo bisogno di essere perdonati. Il tema immigrazione rende incandescente l'Europa tutta. In una lettera congiunta inviata all'alto commissario Mogherini, i ministri degli esteri di Italia, Francia e Germania propongono una politica della migrazione esterna più attiva e inclusiva. Ma intanto il ministro degli esteri ungherese, Szijjártó, annuncia la costruzione di una recinzione alta 4 metri lungo il confine con la Serbia. Non possiamo aspettare l'UE, dice. Il muro di reti e filo spinato è invece già un dato di fatto tra Bulgaria e Turchia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E dopo ci torneremo su questo tema. In serata, dopo la riunione con i sindaci al Viminale, il ministro dell'Interno Alfano ha twittato così: occorre smantellare i campi rom. Anche questo è un tema caldissimo che ritorna a più riprese. Siamo sulla Grecia, domani sulle sue sorti c'è un Eurogruppo decisivo, ma il primo ministro Ellenico Tsipras non accetta compromessi. Ci assumeremo la responsabilità di un grande no alla prosecuzione di una politica catastrofica per la Grecia. Alla vigilia di un cruciale Eurogruppo, ultima spiaggia per evitare il crack di Atene, il premier ellenico Alexis Tsipras tende ulteriormente la corda delle trattative con i creditori. La nostra proposta soddisfa le esigenze delle istituzioni per quanto riguarda gli obiettivi fiscali e le riforme, ha aggiunto Tsipras al termine di un incontro col cancelliere austriaco Faymann. Sullo sfondo l'allarme lanciato dalla banca centrale ellenica: 30 miliardi hanno lasciato il paese in un semestre, una fuga di capitali che potrebbe fare da prologo all'uscita dall'eurozona. Trovare un'intesa con i partner è un imperativo storico che non ci possiamo permettere di ignorare, ha avvertito il governatore dell'istituto centrale Yanis Sturnaras, aggiungendo che l'incapacità di arrivare a un accordo segnerebbe l'inizio di una traiettoria dolorosa che porterebbe prima al default, poi all'uscita dall'eurozona e in ultima istanza molto probabilmente dalla stessa Unione Europea. Il rapporto della banca centrale, che doveva essere consegnato al Parlamento ellenico, è stato però rifiutato dal leader dell'assemblea, che ha reso invece pubblico un rapporto che chiede la ristrutturazione del debito greco. Intanto il ministro delle finanze francese Michel Sapin avverte: un fallimento delle trattative tra Atene e i creditori sarebbe gravissimo per la Grecia, ma anche estremamente grave per il progetto europeo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto la Banca Centrale Europea ha aumentato la liquidità d'emergenza fornita alla Banca Centrale Greca agli istituti ellenici a 84 miliardi di euro. Adesso invece in Italia, con l'occupazione, a proposito dei negoziati su Whirlpool, con la Whirlpool, la ministra dello sviluppo economico Federica Guidi, al termine del tavolo con l'azienda, ha detto: oggi c'è stato un cambio di passo radicale, l'azienda ha fatto importanti aperture scongiurando la chiusura di stabilimenti e modificando l'impostazione del primo piano industriale. Sono soddisfatta per questa apertura. E anche Landini della FIOM parla di un passo avanti importante. E a proposito di lavoro, i decreti attuativi del Jobs Act prevedono che controllare computer e telefonini aziendali sarà possibile anche senza un accordo sindacale. Insorgono però i sindacati e la CGIL parla di colpo di mano e annuncia battaglia. Ne parleremo più tardi con un esperto. Voi continuate con le vostre riflessioni su questo tema sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, dicendo se vi trovate d'accordo su un possibile controllo a distanza attraverso PC e cellulari dei lavoratori. Siamo alla politica, con il caso di Roma, dove la situazione del sindaco Ignazio Marino appare sempre più in bilico. Intanto Beppe Grillo è finito nella bufera per un suo tweet. Sempre più sotto assedio, Ignazio Marino non molla, nonostante l'affondo arrivato ieri da Matteo Renzi. Anche oggi il primo cittadino preferisce non commentare le parole del Premier. Al suo fianco torna però a schierarsi Matteo Orfini, il presidente del Partito Democratico e commissario del PD romano, spiazzato dalle dichiarazioni di Renzi che ieri sarebbero arrivate a sua insaputa. Marino è un sindaco eletto dai cittadini che ha vinto le primarie perché lo hanno scelto gli elettori quelli del Partito Democratico e che ha il dovere di governare questa città. Renzi ha detto una cosa chiara: Marino, dicci se te la senti e se pensi di essere in grado di fare quel salto di qualità. È polemica intanto per un tweet con il quale stamattina Beppe Grillo era tornato a chiedere le dimissioni di Marino e nuove elezioni prima che Roma, aveva scritto l'ex comico, venga sommersa da topi, spazzatura e clandestini, un accostamento giudicato da molti razzista, tant'è che alla fine il leader del Movimento 5 Stelle ha preferito modificare il testo parlando non più di clandestini ma di campi dei clandestini gestiti dalla mafia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di maturità, poi ne parleremo più ampiamente più tardi. C'è stata la prima prova dell'esame oggi per 500.000 di studenti italiani alle prese questa mattina con il tema dell'italiano, e anche quest'anno non sono mancati gli errori nelle tracce. Erano molto fattibili. Tema storico, perché no? Non ho studiato quella parte di storia, devo ancora studiarla. La ragazza che ha preso il premio Nobel. No, mi aspettavo qualcos'altro, come poteva essere l'Expo, l'immigrazione, tutte quelle cose qui. Da Calvino a Malala, la giovane attivista premio Nobel per la pace. Dal tema storico sulla resistenza al Mediterraneo come specchio di civiltà. La prima prova della maturità abbraccia tematiche attuali e non scontate. Si riflette anche sulle sfide del XXI secolo, sullo sviluppo tecnologico e sulla letteratura come esperienza di vita. Per l'analisi del testo il Ministero dell'Istruzione ha scelto Il sentiero dei nidi di ragno, opera prima di Italo Calvino. Guido Davico Bonino è stato un suo allievo. Si tratta innanzitutto dell'opera di un grande scrittore, in secondo luogo di un'opera d'esordio. Questo, come dire, la vicina ai giovani. Di questo libro resta una memorabile recensione di Cesare Pavese, che scriveva: è nato uno scoiattolo della penna. Non sono mancate le sviste nelle tracce d'esame. La lettrice in bianco e giallo, il quadro di Matisse, è diventato la lettrice in abito viola. Un errore anche in uno dei testi a corredo del tema sul Mediterraneo. È stato copiato male un passaggio del libro Il mare di Paolo Frascani e stravolto il senso di una frase sul fondamentalismo islamico. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora speriamo anche un po' di indulgenza nei confronti degli studenti, visti questi errori. Per la cronaca, nuova inchiesta sulla corruzione della Procura di Roma, questa volta all'interno delle emittenti TV, Rai, Mediaset, La 7 e Infront. Sono 44 ex funzionari, anche ci sono 44 funzionari, ex funzionari, scusate, di Palazzo Chigi, e l'imputazione è che ricevevano soldi in cambio di lavori. E poi anche una notizia che riguarda Raul Bova e altre due persone rinviate a giudizio per dichiarazione fraudolente mediante artifici. Compariranno davanti al giudice il 21 settembre 2016, in pratica per evasione fiscale. Siamo al calcio, ci sono molti tormenti nella Coppa America per la Juventus. Dopo l'incidente stradale di ieri notte, per fortuna senza gravi conseguenze, patente ritirata per il cileno Vidal, ubriaco alla guida ma che resta a disposizione della sua nazionale, paese ospitante del torneo. E dal Sud America arriva anche la notizia di un addio doloroso per i bianconeri, che è quello di Tevez. Ma concentriamoci anche sui mondiali femminili, che sono iniziati all'inizio di giugno, il 6 giugno, con Martina Angelini, commentatrice di Eurosport specializzata in calcio femminile. Ciao Martina. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Allora, a questo punto ci sono le squadre delle 24 squadre, quali si sono qualificate per gli ottavi? Allora, stasera si gioca l'ultimo turno, l'ultima giornata, quindi ancora non abbiamo un quadro completo, ma succede una cosa buffa, diciamo, in questo mondiale, perché su 24 squadre se ne qualificano 16. Quindi si qualificano le prime due di ogni girone, come capita spesso, e poi si qualificano le quattro migliori terze su sei. Quindi ci sono in pratica in questo momento due squadre in albergo, che sono Thailandia e Svezia, che, con le valigie pronte, che stanno aspettando di vedere le due partite di stasera, che sono Brasile-Costa Rica e Spagna-Corea, quelle che faremo. E poi nella notte ci sono anche Inghilterra-Colombia e Francia-Messico, per capire se domani devono ripartire o se possono rimanere nel torneo. Ah, sono con un piede dentro e un piede fuori l'albergo, praticamente. Sì, sono in albergo con le valigie, sì, nella hall praticamente. Si sono già qualificate le big, quelle che ci aspettavamo. Germania? Cioè, esempio, Germania, Giappone, Stati Uniti e poi due europee debuttanti, che sono Svizzera e Olanda. Quindi al primo mondiale sono già arrivate negli ottavi di finale e adesso stiamo aspettando le altre, appunto il Canada padrone di casa. Quindi domani Martina Angelini ci saprai dire chi ha preso l'aereo. Domani vi do il quadro, esatto, domani vi do il quadro completo degli ottavi di finale, che iniziano sabato. A domani allora, grazie Martina Angelini. Grazie a te, ciao, grazie. Ora, prima di lasciarci, volevo leggere giusto velocemente qualche messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Per esempio, Andrea da Firenze dice: chi lavora onestamente non teme controlli. A proposito di questa novità che riguarda il Jobs Act, dice: l'importante è che lo facciano anche sugli statali, politici compresi. Poi ci sono altri messaggi che leggerò poi con calma, intanto aggiorniamo chi viaggia. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci ancora insieme, stavo guardando ancora i vostri messaggi, oggi in particolare sul decreto attuativo che riguarda il Jobs Act, quello che già si dice farà discutere, sicuramente fa discutere i sindacati. Wally scrive sulla pagina Facebook, dice sì, sono d'accordo con questi controlli a distanza. Continuate con le vostre opinioni anche al 349-238-6666. Io intanto, se avete acceso la radio solo in questo momento invece di accenderla puntualmente alle 21, vi ricordo comunque le notizie più importanti e tra poco parleremo della scuola, in particolare della prova di maturità che oggi i maturandi hanno affrontato. Migranti, no di Cameron, del primo ministro britannico oggi nel suo incontro bilaterale con Renzi, solo risorse ha detto che fornirà all'Italia. L'Ungheria intanto progetta di alzare un muro di 4 metri, intanto c'è la gaffa di Grillo che mette insieme topi e clandestini e la polemica di Salvini con il Papa. Grecia, Tsipras, il primo ministro annuncia un grande no, un cattivo accordo e poi domani c'è l'Eurogruppo e si capirà qualcosa di più, si spera. Scuola, il governo frena, la ministra Giannini dice non ci sono i tempi per le assunzioni, scontro con le opposizioni, poi c'è il rinvio dei lavori a martedì. Jobs Act, scontro sui controlli a distanza, la CGIL dice sarà battaglia e poi infatti ne parleremo di questo provvedimento previsto per lavoratori con PC e cellulari aziendali. Maturità, ne parleremo tra pochi istanti. Corruzione, indagati funzionari Rai, Mediaset e La 7 in front, tra i 44 anche ex funzionari di Palazzo Chigi che chiedevano soldi in cambio di lavori. Michelle Obama che è a Milano con le figlie e con la madre, oggi andata a visitare il Cenacolo, domani sarà all'Expo e porta avanti la sua sfida contro l'obesità. Incidente per il giocatore Vidal in stato di ebbrezza, Tevez verso l'addio, intanto Vidal è stata sospesa la patente ma resterà a disposizione della nazionale. E parliamo quindi della maturità, quella a cui aspirano almeno le ragazze e i ragazzi alla fine delle scuole superiori. Oggi hanno affrontato la prima prova, quella di italiano. L'autore proposto per l'analisi del testo è stato Italo Calvino, che è molto amato e atteso da chi è arrivato col programma fino a Italo Calvino, perché sapete che spessissimo non ci si arriva. E il brano da analizzare era tratto dal suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, che tra l'altro trovo bellissimo, pubblicato nel 1947, ambientato in Liguria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Poi la traccia di argomento storico era centrata sulla resistenza, con un brano di Dardano Fenulli, un testamento spirituale scritto da questo ufficiale dell'esercito regio che dopo l'8 settembre 43 partecipò attivamente alla resistenza e per questo fu condannato a morte. Poi c'era quello di argomento generale che riguardava Malala, la ragazzina pakistana che i talebani avevano ridotto in fin di vita perché rivendicava il diritto per le bambine di studiare, divenuta poi premio Nobel per la pace e preso spunto dalla sua frase famosa, un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo. E poi c'erano i quattro temi della tipologia B che prevede la stesura di un saggio breve, un articolo di giornale, c'era una riflessione sulla letteratura come esperienza di vita, poi le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale, poi c'era nell'ambito storico-politico il Mediterraneo, Atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà, e c'era poi l'altro tema, lo sviluppo scientifico-tecnologico, che riguardava i social network e come hanno l'informatica, come ha cambiato insomma il mondo della comunicazione, e i più giovani lo sanno benissimo. Le preferenze secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, questa è la classifica, sono andate al primo posto a appunto questo tema di tecnologie social network, il 50,7% l'ha scelto, poi al secondo posto la letteratura come esperienza di vita, è particolare questa scelta, e poi la terza, la traccia su Malala. Ne parliamo prima di tutto con il sottosegretario all'istruzione, l'onorevole Davide Farone, che saluto. Buonasera onorevole, bentornato qui a Effetto Notte. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Onorevole Farone, e lei ha lavorato anche lei, ha contribuito a scegliere queste tracce? Diciamo che niente, ha preferito forse non voleva prendersi la responsabilità. Lo riprendiamo tra pochissimo. Intanto saluto il professor Roberto Carnero, buonasera. Buonasera a voi. Che è professore di italiano al liceo Sant'Elia di Cantù vicino Como, critico letterario anche per il Domenicale del Sole, autore di antologie. La prossima tra l'altro esce a settembre, no? Uscirà, sì, in autunno, lo presenteremo il 20 novembre a Firenze per Giunti e Treccani, Giunti Editore Treccani. Abbiamo forse riraggiunto l'onorevole Faraone? Sì, buonasera, scusate. Non è che non si vuole prendere la responsabilità dei titoli, no? Quindi è fuggito. No, comunque non ho alcuna, non ho avuto alcuna funzione nella scelta dei titoli, per cui non ho nessuna responsabilità né in positivo né in negativo. Bene, però che cosa, come il commenterebbe? Cosa ne pensa? Le è piaciuto uno in particolare? Che cosa avrebbe fatto lei? Ma io sinceramente l'ho scritto anche in un tweet che ho mandato oggi pomeriggio, stamattina avrei scelto quello sull'immigrazione o quello su Malala, perché comunque sono le due questioni che in questo momento stanno più colpendo il nostro paese, anzi io direi anche che è una questione che sta riguardando l'intera Europa, ma il tema dell'immigrazione è una questione che riguarda anche altri continenti, e credo che su quei temi lì avrei avuto più da dire. Senta, e secondo lei sono comunque temi che sono adeguati per i ragazzi di oggi, per il momento che stiamo vivendo, quindi questi? Credo di sì, anche il fatto che sia stato scelto dal 50% degli studenti quello sui social network è l'emblema di come questo sia uno dei temi che comunque più sentito, soprattutto da una generazione che è cresciuta con l'uso di questi strumenti di comunicazione nuovi, per cui credo che siano venuti fuori dei temi che siano assolutamente coerenti con il percorso e con le ragazze. Dopodiché un elemento, una cosa che mi preme sottolineare il fatto che comunque noi dobbiamo immaginare per il futuro anche modalità di gestione di questi esami di maturità, almeno dal mio punto di vista, diverse rispetto a quelli anche di quest'anno. Cioè io l'idea che si valuti un percorso formativo complessivo di uno studente in grossa parte su una prova e poi basta è un'idea che mi sembra un po' datata. Sono assolutamente d'accordo con lei, devo dire la verità. Senta, la lascio libero, però prima mi dice a proposito di svolgere temi, come state svolgendo il tema dell'assunzione dei precari, sottosegretario Faraone? C'è una domanda di riserva. Una domanda di riserva vuol dire che siamo messi no, male allora. Comunque no, a parte gli scherzi, la stiamo affrontando con la determinazione di sempre, nel senso che anche se si dovesse ritardare un po' su un piano che prevedevamo di fare ora e che invece rispetto a 2300 emendamenti presentati all'opposizione al Senato slitterà di qualche settimana, diciamo che il piano assunzione non è in discussione, le risorse ci sono in legge di stabilità, per cui il percorso di assunzione degli insegnanti per una buona scuola rimane in piedi, l'unica cosa che può accadere è che si perderà un po' più di tempo. Grazie onorevole Faraone. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie. Allora, ritorniamo al professor Roberto Carnero. Professore, quindi come giudichiamo questi temi? Il sottosegretario Faraone diceva, ma effettivamente sì, sono adeguati ai tempi. Cambierebbe però, anch'io sono d'accordo sul fatto che non si possa giudicare, perché è vero che poi magari uno è andato benissimo durante tutto l'anno e lì si emoziona dei momenti di incertezza, può succedere qualsiasi imprevisto e magari le cose vanno male e di tutto un percorso virtuoso magari poi racimola, diciamo... Questo è vero in generale per tutti i tipi di esame, che però sì, io credo abbiano ancora, nel caso degli esami di maturità, una valenza formativa, no? È una valenza educativa. Del resto queste tracce di italiano, no, della prima prova, sono temi che non richiedono particolari conoscenze, no? Cioè qualcuno ha detto anche Calvino non l'abbiamo fatto, non siamo arrivati, non importa, perché è un tipo di traccia che non presuppone una conoscenza storico-letteraria dell'autore neppure dell'opera. Uno poteva anche non aver mai sentito nominare Calvino, nel Sentiero di Ragno, e affrontare la traccia, perché le risposte alle domande poste sono tutte dentro il testo fornito agli studenti. Si tratta di riflettere sul testo, interpretarlo, quindi più che delle conoscenze vengono testate delle competenze, che è un po' quello che la scuola di oggi cerca di fare. In questo caso si tratta di analizzare, interpretare e poi scrivere in maniera corretta, in italiano corretto. E d'altra parte poi c'erano appunto quest'ampio ventaglio di altre tracce, i saggi brevi che ha ricordato lei prima, e sono appunto, diciamo che uno studente è difficile che non trovasse tra questi argomenti almeno uno, no, su cui poteva intervenire. C'era ampia scelta, insomma. Perché sono argomenti talmente dibattuti nei media, ma direi proprio agli angoli delle strade. Ecco, casomai il rischio è proprio quello di dire delle banalità in questi casi, no, sul tema del Mediterraneo, quindi dell'immigrazione, eccetera. E, penso che poi venga valutato, no, in base alla mia esperienza nelle commissioni d'esame, soprattutto più che il cosa, il come, no? Cioè in che modo gli studenti mettono a frutto i materiali che hanno, la conseguenzialità logica nell'argomentazione e appunto la forma. Però direi che non è più una prova, quando ho fatto io la maturità e penso anche lei e molti di quelli che ci ascoltano, e il tema di letteratura poteva essere qualsiasi cosa, sì. Non so, la visione tragica di Manzoni quando ho fatto la maturità io nell'89, e se tu avevi studiato bene Manzoni oppure quel tema non potevi farlo, in questo caso direi che tutti possono cimentarsi e sono a loro agio, direi, con questo testo. Quindi il giudizio è positivo? Direi di sì, complessivamente positivo. Quello avrebbe fatto lei di traccia? Ma io così, per mia preferenza la letteratura, insomma, quella di cui mi occupo, avrei scelto sicuramente Calvino, era anche un brano molto bello, sì. Breve ma intenso, per cui c'era modo. E poi anche l'ultima domanda chiedeva di legare, diciamo, questo una riflessione su questo testo con le letture personali, e quindi c'era anche modo di metterci del proprio in questo svolgimento. Saluto anche Valeria Roscioni, buonasera. Buonasera. Che è redattrice di studenti.it. Vediamo dalla parte degli studenti qual è il giudizio di queste tracce. Ma il giudizio è abbastanza positivo, nel senso c'è stato sempre, insomma, i soliti che si sono un po' lamentati, però in generale fuori dalle scuole questa prima prova è servita molto a rompere il ghiaccio. Come sentivo già gli altri ospiti dicevano, effettivamente quasi tutti i ragazzi hanno trovato qualcosa da dire. Certo erano spiazzati, molto spiazzati, perché si aspettavano terrorismo, ISIS, immigrazione, soprattutto Expo, alimentazione, e trovandosi di fronte tutt'altro quando sono usciti li abbiamo sentiti particolarmente straniti da questa cosa. Posso dire una cosa? Sì, sì, prego, professor Carnero. All'amica di studenti.it, che sì. È il sito che noi insegnanti temiamo maggiormente, no? Perché poi ci sono le soluzioni alle versioni, eccetera. C'è una regola non scritta di Ale Trastevere, che è quella per cui quando c'è un evento d'attualità, un anniversario, ecco, il tema di maturità non sarà su quello. Quest'anno c'era i 750 anni della nascita di Dante, niente Dante, 40 anni della morte di Pasolini, niente Pasolini. Quindi il modo più sicuro per escludere alcuni argomenti è vedere, no, quello che c'è sui giornali in questi mesi. Ecco. Beh, allora l'anno prossimo faremo un tema contrario. Quindi bisogna tenere presente questa regola. Allora, se ci sono degli avvenimenti, delle cose che sono imminenti o che sono di grande importanza, dominanti, eccetera, bisogna pensare ad altro, non farsi fuorviare da questa centralità. Grazie professor Roberto Carnero, grazie Valeria Roscioni. Grazie. Buonasera. Grazie. E domani naturalmente c'è la seconda prova, avremo magari modo di capire come è andata, quali sono state, cioè vabbè, la matematica per lo scientifico, il latino per il classico, sono quelle un po' più specifiche. Direi a questo punto di lasciarci con una breve pausa di ricreazione e poi volevo vedere ancora qualche altro messaggio dei vostri, vediamo, non mi offenderei per essere accomunato ai topi, sono animali molto intelligenti, da Firenze questo messaggio, beh insomma... è contento lui di essere accomunato ai topi, va bene. Arianna da Vicenza, d'accordo per il controllo sul lavoro e con Salvini sul Vaticano. E qualcuno scrive, non si firma, reintrodurre il reato di clandestinità. Continuate con i vostri messaggi, soprattutto semmai sulla questione del Jobs Act, su questo nuovo decreto attuativo che prevede la possibilità di controllo dei lavoratori attraverso i PC, i tablet e i cellulari aziendali. Siete d'accordo? Pagina Facebook di Effetto Notte oppure i vostri SMS al 349-238-6666. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, con me i vostri messaggi che tra poco leggerò sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. E poiché ci siamo lasciati per qualche minuto, tra poco vi ricordo anche le notizie in primo piano, però prima i messaggi, per esempio sulla questione dell'immigrazione, dei respingimenti, delle polemiche eccetera, Andrea Corazza da Udine scrive: non ho mai votato Lega, voglio proporre a Salvini di stare un anno in un paese dell'ISIS e io dopo il suo rientro lo voterò. E poi invece sulla questione del Jobs Act, di questi decreti attuativi di cui parleremo, Giovanna dice: più che d'accordo sulla possibilità di controllo, la norma attuale è più che obsoleta. Poi invece Enrico Grando dice: se uno lavora onestamente non ha nulla da temere sindacati obsoleti. E poi ancora da Milano: lavoro da 20 anni, dice Filippo 43, lavoro da 20 anni nell'information technology e sono contrarissimo alla possibilità per le aziende di controllare i dipendenti, un grave affronto alla libertà personale. Ne parleremo tra pochi istanti, intanto le notizie. L'emergenza immigrazione, nel vertice Renzi-Cameron il primo ministro britannico promette solo uomini e risorse, l'Ungheria progetta un muro anti-immigrati alto 4 metri e Salvini polemizza col Papa. La questione dei Rom, dopo la riunione con i sindaci al Viminale, il ministro Alfano scrive in un tweet: occorre smantellare i campi Rom. Grecia, il primo ministro greco Tsipras chiude a compromessi con i creditori in vista del cruciale Eurogruppo di domani, annuncia un grande no a un cattivo accordo. Michelle Obama è arrivata a Milano, la First Lady americana promuove stili di vita salutari e domani in visita l'Expo. Scuola, ne abbiamo appena parlato, oggi c'è stata la prima prova dei maturandi, il 50% ha scelto la traccia sulle nuove tecnologie e social network. Decreto del Jobs Act, i lavoratori con PC e cellulare potranno essere controllati a distanza, ne parleremo tra pochi istanti. E poi per il calcio, una Coppa America tormentata per la Juventus con Vidal che è coinvolto in un incidente, anche se non si è fatto niente di che, Tevez verso l'addio ai bianconeri. Quindi, Jobs Act, questi decreti attuativi che abbiamo detto sono i decreti attuativi che poi sono le norme che devono rendere poi applicabile una legge. Quello che emerge oggi è un altro aspetto della nuova normativa sul lavoro che farà discutere, così si dice, ma già sono sul piede di guerra i sindacati. Si parla di controlli su PC e telefonini anche senza l'accordo dei lavoratori, cioè non saranno più necessari degli accordi sindacali, delle autorizzazioni, perché le aziende possano controllare i computer, tablet, smartphone dati in dotazione ai lavoratori. A dettare questa nuova disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori è l'articolo 23 del decreto. Questi decreti in realtà poi comunque dovranno passare al vaglio del Parlamento. CGIL, vi dicevo, ha già detto che un colpo di mano sui controlli sarà battaglia, così la CISL. Will dice: agiremo contro i controlli a distanza, ancora una volta di regolamentazione a vantaggio solo delle imprese. L'UGL fa sapere che allora a questo punto dice: chiediamo al Parlamento, e se il governo non vorrà farlo, di approvare una legge di contrasto al fenomeno del mobbing. Ne parliamo con il professor Stefano Lippmann. Buonasera professore. Buonasera a lei. Che è docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi. Quindi ha sentito sia i messaggi sia anche i sindacati, esattamente di cosa si tratta ed è davvero possibile? Non si rischiano poi anche, non solo dice l'UGL, mobbing, ma dall'altra parte anche poi delle possibili cause, cioè una cosa che si può attuare? Non drammatizzerei più di tanto, la novità è significativa, però partire dal dato di fatto, cioè l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori è stato pensato, formulato in un altro mondo, in un altro modo di produrre, in un altro mondo. Oggi l'automazione e l'utilizzazione di software raffinatissimi è parte del processo produttivo ineliminabile. Che questo possa comportare fonti di informazioni su dati non particolarmente rilevanti è un problema del quale si discute da anni, cioè da quando questo fenomeno è cominciato. Questo è un tentativo di dare una soluzione della quale non esaspererei i toni, perché stiamo parlando di strumenti di lavoro, non il cellulare privato. Professore, ma questi controlli consistevano in cosa? Se il lavoratore produce, se è al lavoro o non è al lavoro, esattamente in cosa consiste questo tipo di controllo? Non si sa, in realtà dall'uso di un qualunque strumento elettronico restano tracce. Allora, se queste sono utilizzabili ai fini della valutazione della prestazione lavorativa, questo lo consente. Quindi di mezzo la privacy non viene compromessa, non c'è la possibilità di... Allora, dopodiché, siccome in realtà verso questo risultato molto netto, dato come quasi tutti questi decreti attuativi dal Jobs Act, ma siccome per la strada ci si stava andando, da anni esiste un'articolata disciplina di tutela della privacy con specifico riferimento alla tutela del lavoratore. Allora, quello che è intervenuto con il decreto attuativo di ieri è puramente e semplicemente una esplicitazione della utilizzabilità ai soli fini della prestazione lavorativa dei dati rilevabili dall'uso di macchine messe a disposizione del lavoratore per l'esercizio della propria attività. Credo, professor Lippmann, che quindi sia necessario un ulteriore chiarimento, capire per esempio capire in che esempi, in che situazioni, no, questa cosa. Ho capito che è legato al lavoro, ma bisogna vedere se uno magari ha fatto una veloce conversazione privata, oppure se invece non era al suo posto di lavoro in quel momento, o se ha scritto una cosa su Facebook, che ne so. Una... Di questo potrebbero per esempio, e su questo potrebbe essere importante una contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva. Una contrattazione quella collettiva. Quella che è stata eliminata dalla novità del Jobs Act, e cioè il necessario ricorso alla contrattazione collettiva per poter utilizzare certe cose, a questo punto può diventare uno strumento fondamentale per delimitare sin dove si vuole arrivare il controllo, che cosa è sanzionabile e cosa no. Io la ringrazio, professore. Buon lavoro per la contrattazione collettiva. Grazie, professor Lippmann. La ringrazio, professore. E poi, appunto, aspettiamo di sapere le cose in un modo un po' più chiaro. Mi scuso, anche se non era chiarissimo, fra l'altro, l'audio. Sapete che gli ospiti andiamo a beccare nei posti più strani, possono essere naturalmente nelle situazioni più diverse, e quindi non sempre può essere limpido. Però mi sembrava che il professore fosse stato chiaro ed essenziale sull'argomento. Vi dicevo, resta poi anche al vaglio del Parlamento, no? Fare eventuali cambiamenti. Comunque su questa cosa ritorneremo, perché come dicevo prima, i sindacati già sono sul piede di guerra. 349-238-6666, questo è il numero per i messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Nota le vostre riflessioni. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E molto velocemente vi ricordo quali sono le notizie principali. Questo incontro bilaterale oggi all'Expo tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Primo Ministro britannico Cameron, che ha detto: siamo disposti a darvi una mano sull'intelligence per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, ma no alle quote, daremo risorse e uomini. E poi per la Grecia ancora l'accordo, domani c'è un Eurogruppo importante, però il Primo Ministro Tsipras già annuncia un grande no a un eventuale cattivo accordo. Poi della scuola abbiamo parlato, della maturità, oggi c'è stata la prima prova. Intanto il governo frena, la ministra Giannini dice non ci sono i tempi per le assunzioni, scontro con le opposizioni, poi c'è il rinvio dei lavori a martedì, come anche ci diceva il sottosegretario Faraone qui a ospite Effetto Notte. Jobs Act, ne abbiamo appena parlato, su questo scontro con possibili controlli a distanza. E poi corruzione, indagati funzionari di Rai, Mediaset, La 7 e Infront, tra i 44 anche ex funzionari di Palazzo Chigi, il reato sarebbe aver preso soldi in cambio di lavoro. E poi Michelle Obama, che è arrivata con le sue figlie e con sua madre a Milano, domani visiterà anche lei l'Expo. E per la Juventus, incidente per Vidal in stato di ebbrezza, ma sarà a disposizione della nazionale. Europa 24 notte. Parliamo di energie rinnovabili, che in Europa crescono, l'obiettivo del 20% entro il 2020 ormai alle porte, quanto scrive la Commissione Europea nella relazione sulle fonti rinnovabili. Bene l'Italia e invece indietro Olanda, Gran Bretagna e Lussemburgo. Il rapporto dimostra ancora una volta che l'Europa è adatta alle energie rinnovabili e che le rinnovabili sono adatte all'Europa, così dice il commissario per l'azione per il clima e l'energia Miguel Arias Canete. Per gli ambientalisti è un buon risultato, ma c'è preoccupazione per gli obiettivi poco ambiziosi fissati per il futuro. The majority of member states and the European Union as a whole are on track to meet the renewable energy targets. L'Unione Europea è sulla rotta giusta per centrare il target del 20% di consumo complessivo di energia da rinnovabili per il 2020. Ad essere in regola sono ben 25 paesi, tra cui l'Italia, di cui 19 addirittura oltre i propri obiettivi. Indietro Olanda, Gran Bretagna e Lussemburgo. È soddisfatto il commissario per l'azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete dei progressi sulle rinnovabili compiuti dall'Europa, dove il 26% dell'elettricità ormai arriva da fonti verdi. Abbiamo 3 volte più energia rinnovabile pro capite in Europa che in qualsiasi altra parte del mondo, dice. Più di 1 milione di persone che lavorano in un settore dal valore di oltre 130 miliardi di euro l'anno, mentre esportiamo 35 miliardi di dollari di fonti rinnovabili ogni anno. Quanto al target del 10% di fonti verdi nel settore trasporti, l'Europa nel 2014 è a quota 5,7, quindi è fattibile, dice Cañete, ma occorre fare qualche sforzo in più. Il messaggio però è chiaro: non dobbiamo tornare indietro, ma continuare con questi progressi integrando le rinnovabili nel nostro sistema energetico. My message today is very clear. We cannot and will not revert back to that old way of thinking. We will provide the adequate signals to the market and make the necessary reforms to continue with our progress. Ma cosa ne pensano i Verdi di questa relazione? È davvero così? E l'Italia a che punto sta? Lo abbiamo chiesto a Monica Frassoni, presidente del Partito Verde Europeo. La prima cosa è che siamo soddisfatti ma non sorpresi, perché è evidente che avendo una legislazione vincolante, nel senso che, come lei sa, dal 2008 fino al 2020 siamo coperti da questa legislazione che dice che ogni Stato membro deve obbligatoriamente andare nella direzione di maggiore consumo di rinnovabili. E noi abbiamo sempre detto che questa legislazione e questi vincoli, anche se abbiamo sempre considerati che erano molto modesti, quindi non siamo sorpresi, perché avendo una legislazione chiara è evidente che si crea il mercato, si crea la tecnologia e si creano le occasioni per lo sviluppo di queste nuove energie, che è andato ovviamente rapidamente. I problemi ci sono per il futuro, perché invece di ripetere nel periodo tra il 2020 e il 2030 lo stesso schema, e cioè target vincolanti e non ambiziosissimi, non insomma abbastanza soddisfacenti, per il periodo 2020-2030 si è scelta una strada radicalmente diversa, che è quella di fissare un vincolo del 27% estremamente debole, molto molto poco ambizioso, e si permette anche di smantellare in modo eccessivamente severo, addirittura in modo retroattivo, dei quadri finanziari che esistevano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ritorniamo a parlare per forza dell'emergenza immigrazione, perché tra i continui sbarchi sulle coste italiane, il braccio di ferro da qualche giorno tra Italia e Francia sugli immigrati che ostinatamente stanno lì a Ventimiglia, il confine tra Francia e Italia, che vogliono andare in Francia, nel nord Europa. L'Ungheria, che ha fatto sapere che ha in progetto una costruzione di un muro di 4 metri lungo l'intero confine con la Serbia per arginare il flusso dei clandestini, degli immigrati clandestini. Poi la riunione di ieri in Lussemburgo, dalla quale non sono emersi grandi risultati, e oggi questa offerta, diciamo, parliamo di offerta del primo ministro Cameron all'Expo 2015 nel bilaterale con Matteo Renzi, che ha detto: la Gran Bretagna metterà a disposizione dell'Italia uomini e risorse per collaborare con i servizi segreti in Sicilia, però niente quote. E quindi, e poi c'è grande confusione a proposito di diritto internazionale, diritto europeo, tra il trattato di Schengen, quello di Dublino, quello di Chambéry, insomma cosa prevedono esattamente le norme che regolano il flusso di migranti da un paese dell'Unione all'altro. Ne parliamo con Antonio Villafranca, bentornato. Grazie, buonasera. Responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Sembra che non se ne esca, Villafranca. La situazione è sempre più preoccupante o si drammatizza? Magari sono i media queste immagini che fanno un po'... Ma io credo che ci sia una sorta di ormai isteria collettiva rispetto a questo tema. Non perché il problema non ci sia e perché ovviamente non vada affrontato in maniera seria. Però bisogna stare ai numeri. Numeri, perché credo che questo sia importante. L'Italia l'anno scorso ha avuto 175.000 immigrati, quest'anno probabilmente saranno un po' di più, 200.000. Finora in Italia sono arrivati 58.000 immigrati, in Grecia peraltro ne sono già arrivati 50.000. Ma non dimentichiamo che appena fuori dall'Europa ci sono dei paesi che stanno gestendo milioni di immigrati. In Libano, per esempio, un immigrato per circa 4 persone che vivono in Libia. Quindi, allora, l'Europa ha le capacità e ha le potenzialità, sicuramente anche economiche, per affrontare il problema. Non è un tema di emergenza nazionale, di sicurezza nazionale. Quindi bisogna gestirlo per quello che è, con professionalità, e ognuno deve fare la propria parte, inclusa l'Italia. Cosa ci criticano nel Nord Europa? Ad esempio, in Germania ci ricordano che l'anno scorso hanno avuto 200.000 richieste d'asilo, l'Italia ne ha avute 65.000. Allora noi dobbiamo sapere che dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo firmato Dublino, che dice che essenzialmente ci dobbiamo prendere cura degli immigrati che arrivano in Italia. Noi in realtà ne diamo un'interpretazione un po' troppo ampia, proprio perché non ci piace Dublino. Ma se dobbiamo rinegoziare Dublino, dobbiamo essere credibili nei confronti soprattutto dei paesi del Nord Europa. Antonio Villafranca, la ringrazio, appuntamento a una prossima puntata, naturalmente, perché sono infinite le puntate sull'emergenza immigrazione. Grazie intanto. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Noi ci risentiamo alle 22.